Ai disturbi della memoria, infatti, sono legate le intermittenze del cuore. È sicuramente l'esistenza del nostro corpo, simile per noi a un vaso in cui fosse racchiusa la nostra spiritualità, a farci supporre che tutti i nostri beni interiori, le nostre gioie passate, tutti i nostri dolori, siano perennemente in nostro possesso. Forse è altrettanto inesatto credere che se ne vadano o ritornino. In ogni caso, se rimangono dentro di noi, rimangono per la maggior parte del tempo in una regione sconosciuta, dove non ci sono d'alcun giovamento e dove anche i più usuali vengono ricacciati indietro da ricordi di diversa natura, che escludono ogni simultaneità con essi all'interno della coscienza. Ma non appena si ricostruisce la cornice di sensazioni in cui sono conservati, essi acquistano a loro volta il medesimo potere d'espellere tutto quanto sia incompatibile con loro, installando in noi, solitario, l'io che li ha vissuti. Ora, poiché quello che ero improvvisamente ridiventato non era più esistito dalla lontana prima sera in cui la nonna, al mio arrivo a Baalbek, m'aveva aiutato a svestirmi, fu con assoluta naturalezza, non già dopo l'attuale giornata, che quell'io ignorava, bensì come se ci fossero nel tempo delle serie distinte e parallele, immediatamente dopo quella sera, senza alcuna soluzione di continuità con essa, che aderì all'attimo in cui la nonna s'era chinata su di me. L'io, che io ero allora e che da tanto era scomparso, m'era di nuovo così vicino che mi sembrava ancora di sentire le parole pronunciate subito prima e che tuttavia non erano più che un sogno, così come un uomo non ancora ben desto crede di percepire proprio accanto a sé i rumori del suo sogno che svanisce. Non ero più che quell'essere tutto teso a rifugiarsi fra le braccia di sua nonna, a cancellare con i baci le tracce della sua pena. Un essere che mi sarebbe costato tanta fatica a immaginare, quando ero l'uno o l'altro di quelli che gli erano succeduti da qualche tempo dentro di me. Quanta me ne sarebbe occorsa adesso e invano per riprovare i desideri e le gioie d'uno di quelli che almeno per il momento non ero più. Ricordai come, un'ora prima dell'istante in cui la nonna s'era chinata in vestaglia verso i miei stivaletti, io avessi temuto, mentre vagavo nel calore soffocante della strada davanti alla pasticceria, che non sarei riuscito, tanto bisogno avevo d'abbracciarla, a sopravvivere a quell'ora che dovevo passare senza di lei. E adesso, che lo stesso bisogno rinasceva, sapevo che avrei potuto aspettare ore dopo ore senza mai più riaverla accanto a me. Non facevo che scoprirlo, perché ritrovandola infine, sentendola per la prima volta, lei viva, lei vera, invadermi il cuore sino a spezzarlo, m'ero accorto d'averla perduta per sempre. Perduta per sempre. Non riuscivo a capire e m'esercitavo a subire la sofferenza di questa contraddizione. Da una parte, un'esistenza, una tenerezza che sopravvivevano in me così come le avevo conosciute, vale a dire fatte per me. Un amore dove tutto trovava in me il proprio complemento, il proprio scopo, la propria costante direzione, al punto che il genio dei grandi, che tutti i geni esistiti dal principio del mondo, non sarebbero valsi agli occhi della nonna uno solo dei miei difetti. E d'altra parte, non appena rivissuta come presente questa felicità, sentirla trafitta dalla certezza, pulsante a ripetizione come un dolore fisico, di un nulla che aveva cancellato la mia immagine di quella tenerezza, distrutto quell'esistenza, abolito retrospettivamente la nostra mutua predestinazione, fatto della nonna, nel momento in cui la ritrovavo come in uno specchio, una semplice estranea, che per volere del caso aveva trascorso qualche anno accanto a me, così come avrebbe potuto trascorrerlo accanto a chiunque altro, ma per la quale, prima e dopo, io non ero stato, io non sarei stato nessuno. invece dei piaceri avuti negli ultimi tempi, e solo che in quel momento avrei potuto veramente assaporare, sarebbe consistito nel diminuire, ritoccando il passato, i dolori patiti un tempo dalla nonna. Ora non la ricordavo solo avvolta in quella vestaglia, abbigliamento consono tanto da diventarne quasi il simbolo, alle fatiche certo malsane ma anche dolci che sopportava per me. A poco ecco, mi tornavano alla mente tutte le occasioni che non m'ero lasciato sfuggire, rivelandole o addirittura esagerando le mie sofferenze, per provocarle una pena che mi figuravo, poi cancellata dai miei baci come se la mia tenerezza fosse capace di renderla felice quanto la mia felicità. E peggio ancora io, che non concepivo adesso altra felicità se non quella di poterne ritrovare col ricordo qualche traccia sulle superfici di quel viso modellate e piegate dalla tenerezza, avevo cercato allora, con insensato accanimento, di sottrarle ogni minimo piacere, come il giorno in cui Saint-Loup le aveva fatto la fotografia e io, mal sopportando la puerilità quasi ridicola della civetteria che l'aveva indotta a mettersi in posa col suo cappello a larghe falde, in una mezza luce che le donava, non m'ero trattenuto dal mormorare qualche parola impaziente e offensiva, che l'avevo capito da una contrazione del suo volto, era arrivata a segno, l'avevo ferita. Ero io adesso a sentirmene straziato, adesso che era per sempre impossibile la consolazione di mille baci. Mai più sarei riuscito a cancellare quella contrazione dal suo viso e quella sofferenza dal suo cuore, anzi dal mio. Perché se è vero che i morti non esistono più che in noi, è su noi stessi che inferiamo, ostinandoci a ricordare la perfidia con cui li abbiamo colpiti. A questi dolori, per quanto crudeli, m'attaccavo con tutte le mie forze, perché li vivevo come effetto del ricordo della nonna, come prova che esso era ben presente dentro di me. Sentivo di ricordarla veramente solo attraverso il dolore, e avrei voluto che i chiodi che ribadivano il mio cuore e la sua memoria vi penetrassero ancora più profondamente. Non cercavo di mitigare la sofferenza, di abbellirla, di fingere che la nonna fosse solo assente e momentaneamente invisibile, rivolgendo alla sua fotografia, quella fatta da Saint-Loup e che avevo con me, parole e preghiere come a un essere separato da noi, il quale tuttavia è rimasto individuale, ci conosca e resti legato a noi da un'armonia indissolubile. Non lo feci mai, perché tenevo non soltanto a soffrire, ma a rispettare l'originalità della mia sofferenza, così come l'avevo subita all'improvviso, senza volerlo, e volevo continuare a subirla, obbedendo alle sue leggi, ogni volta che fosse tornata quella strana contraddizione della sopravvivenza e del nulla intrecciati dentro di me. Di un'impressione tanto dolorosa e per il momento incomprensibile, una sola cosa potevo sapere. Non certo se ne avrei estratto un giorno un po' di verità, ma che se mai fosse riuscito quel po' di verità a farlo emergere, sarebbe stato sicuramente da lì, da quell'impressione così particolare, così spontanea, non attenuata dalla mia pusillanimità e tracciata, anziché dalla mia intelligenza, dalla morte stessa, dalla brusca rivelazione della morte, che simile alla folgore l'aveva scavata in me secondo un grafico soprannaturale, disumano, come un solco duplice e misterioso. Quanto all'oblio della nonna in cui finora ero vissuto, non potevo nemmeno pensare di ricavarne qualche verità, già che non era in se stesso altro che negazione, indebolimento del pensiero costretto nella sua incapacità di ricreare un momento reale della vita a sostituirlo con immagini convenzionali e indifferenti. Tuttavia, poiché l'istinto di conservazione, l'ingegnosità con cui la mente sa preservarci dal dolore, cominciavano forse, su rovine ancora fumanti, a porre le prime basi della loro opera utile e nefasta, assaporavo già un po' troppo la dolcezza di ricordare questo o quel giudizio dell'essere amato, di ricordarli come se avesse ancora potuto pronunciarli, come se ancora esistesse e io continuassi a esistere per lei. Ma non appena riuscii ad addormentarmi, nell'ora più veridica in cui i miei occhi si chiusero alle cose esteriori, il mondo del sonno, sulla cui soglia l'intelligenza e la volontà, momentaneamente paralizzate, non potevano più contendermi alla crudeltà delle mie impressioni reali, riflesse, rifranse, la sintesi dolorosa, finalmente riformatasi, della sopravvivenza e del nulla, nella profondità organica e fattasi traslucida delle viscere misteriosamente rischiarate. Mondo del sonno in cui la conoscenza interiore, posta alle dipendenze dei disturbi dei nostri organi, accelera il ritmo del cuore o del respiro, perché un'uguale dose di spavento, di tristezza, di rimorso agisce con potenza centuplicata se viene iniettata così nelle nostre vene. Non appena ci imbarchiamo, accingendoci a percorrere le arterie della città sotterranea, sui neri flutti del nostro proprio sangue, come su un lete interiore, dalle sestuple spire, grandi figure solenni ci appaiono, ci abbordano e ci abbandonano, lasciandoci in lacrime. Come approdai sotto gli oscuri portici, cercai invano quella della nonna. Eppure sapevo che esisteva ancora, che ancora viveva, sebbene d'una vita diminuita, pallida, come quella del ricordo. L'oscurità stava crescendo e il vento. Mio padre non arrivava, che doveva condurmi da lei. Di colpo mi mancò il respiro. Sentii il mio cuore farsi come di pietra. M'ero ricordato che da lunghe settimane avevo tralasciato di scrivere alla nonna. Cosa avrebbe pensato di me? Dio mio, mi dicevo, deve essere ben infelice in quella stanzetta che le abbiamo presa in affitto, piccola, come per una vecchia domestica, dove se ne sta tutta sola con la sorvegliante che le abbiamo messo accanto per curarla, dove non si può muovere perché è sempre un po' paralizzata e non ha voluto alzarsi neanche una volta. Crederà che io l'abbia dimenticata da quando è morta. Chissà come si sente sola e abbandonata. Bisogna che corra da lei. Non posso aspettare un minuto di più, non posso aspettare che arrivi mio padre. Ma dov'è? Come ho potuto dimenticare l'indirizzo? Purché mi riconosca ancora? Come ho potuto dimenticarla per tutti questi mesi? È buio. Non troverò la strada. Il vento mi impedisce d'avanzare. Ma ecco, mio padre che cammina davanti a me. Gli grido, dov'è la nonna? Dammi l'indirizzo. Sta bene. Siamo sicuri che non le manchi niente. Ma no, mi dice mio padre, puoi stare tranquillo. La sorvegliante è una persona meticolosa. Ogni tanto le mandiamo una piccola somma perché possa comprarle quel poco che le serve. Qualche volta chiede di te. Anzi, le abbiamo detto che stavi per fare un libro. È sembrata contenta. Si è asciugata una lacrima. Allora mi parve di ricordare che poco dopo la sua morte la nonna mi avesse detto, piangiucchiando umilmente come una vecchia domestica scacciata, come un'estranea, mi permetterai lo stesso di vederti qualche volta, non lascerai passare troppi anni senza venire a trovarmi. Ricorda che sei stato mio nipote e che le nonne non dimenticano. E rivedendo quel suo viso così sottomesso, così infelice, così dolce, volevo correre subito a dirle quello che avrei dovuto risponderle allora. Ma nonna, mi vedrai quanto vorrai. Non ho che te al mondo. Non ti lascerò mai più. Come deve averla fatta piangere il mio silenzio. Dopo tanti mesi che non vado là, dove giace. Che cosa avrà pensato? E singhiozzavo anch'io, mentre dicevo a mio padre, presto, presto, il suo indirizzo, accompagnami. Ma lui, è che non so se potrei vederla. E poi sai, è debole, debolissima, non è più la stessa. Temo che sarà piuttosto penoso per te. E non ricordo il numero esatto del viale. Ma allora dimmi, tu che sai, non è vero che i morti non vivano più. Non può essere vero, nonostante quel che si dice, dal momento che la nonna esiste ancora. Mio padre sorrise tristemente. Oh, molto poco, sai. Molto poco. Dammi retta. Faresti meglio a non andarci. Non le manca niente. Vanno sempre a mettere in ordine. Ma resta spesso sola. Sì, ma è meglio così. È meglio che non pensi, potrebbe farla soffrire. Spesso si soffre a pensare. Del resto, sai, è molto spenta. Ti lascerò l'indicazione precisa perché tu possa andarci, ma non vedo cosa possa servire. Poi non credo che la sorvegliante te la lascerebbe vedere. Eppure lo sai che vivrò sempre con lei. Cervi, Cervi, Francis James, Forchetta. Ma già avevo riattraversato il fiume dai tenebrosi meandri. Ero risalito alla superficie dove s'apre il mondo dei vivi. E così, anche se continuavo a ripetere Francis James, Cervi, Cervi, questa sequenza di parole non mi offriva più il limpido senso. La logica che essa esprimeva per me con tanta naturalezza sino un attimo prima e che non riuscivo più a ricordare. Nemmeno riuscivo più a capire come mai la parola Ayas, appena dettami da mio padre, avesse significato all'istante, senza il minimo dubbio, attento a non prendere freddo. Avevo dimenticato di chiudere le imposte e la luce del sole, evidentemente, m'aveva svegliato. Ma non potei sopportare d'avere sotto gli occhi le onde di quel mare che la nonna un tempo era capace di contemplare per ore. Alla nuova immagine della loro indifferente bellezza s'accompagnava subito il pensiero che lei non le vedeva. Avrei voluto tappare le orecchie al loro fragore perché la pienezza luminosa della spiaggia scavava adesso un vuoto nel mio cuore. Tutto sembrava dirmi, come i viali e i prati del giardino pubblico dove una volta da bambino l'avevo perduta, non l'abbiamo vista. E sotto la rotondità del cielo pallido e divino mi sentivo oppresso, come sotto un'immensa campagna azzurrognola che delimitasse un orizzonte dal quale la nonna era esclusa. Per non vedere più nulla, mi girai dalla parte del muro, ma era, ahimè, la parete che ci serviva allora per i nostri messaggi mattutini, la parete che, docile come un violino nel rendere tutte le sfumature d'un sentimento, diceva con tanta esattezza alla nonna il mio timore di svegliarla e al tempo stesso, che, già sveglia, non mi sentisse e non osasse muoversi. E poi subito, come la replica d'un secondo strumento, m'annunciava il suo arrivo e mi invitava alla calma. A quella parete non avevo il coraggio di avvicinarmi più che a un pianoforte suonato un tempo dalla nonna e che vibrasse ancora del suo tocco. Sapevo che adesso, per quanto mi fossi affannato a bussare, anche aumentando l'intensità dei colpi, più niente avrebbe potuto ridestarla. Non avrei udito alcuna risposta. La nonna non sarebbe più venuta. E questo soltanto chiedevo a Dio, se esiste un paradiso, che ci fosse quella parete contro la quale poter battere tre piccoli colpi che la nonna avrebbe riconosciuti fra mille, affidando la sua risposta ad altri colpi che volevano dire «Non agitarti, Topolino. Capisco che sei impaziente, ma sto per arrivare». E di lasciarci insieme per tutta l'eternità, che per noi due non sarebbe stata troppo lunga.